Perfetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. L'avvento dei robot e l'automazione, il boom economico, l'ambiente, la ricostruzione dopo i disastri, ecco le tracce della maturità. Per l'analisi del testo, il poeta Giorgio Caproni. Secondo l'Istat, 800.000 lavoratori hanno lasciato l'Italia dall'inizio della crisi, 500.000 di italiani, centinaia di migliaia si spostano da sud a nord. Nel giorno del discorso della regina in Parlamento per l'inizio della legislatura ha ricoverato il principe consorte Filippo per un'infezione. Belgio evacuata la stazione di Namur per un allarme bomba dopo il fallito attentato di ieri. Dettagli sull'estremista marocchino, 36 anni, aveva una bomba con chiodi e gas. Gentiloni duro con l'Europa, alla vigilia del Consiglio europeo ci dicano se sui migranti dobbiamo cavarcela da soli. Bruxelles cambi, la crescita non sia soffocata dalle regole. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666, come sempre, è l'uno per gli sms e per i messaggi su WhatsApp. C'è anche la nostra pagina Facebook, dalla quale andiamo in diretta, www.facebook.com/effettogiorno, così come dalla pagina Facebook di Radio 24. E se volete potete commentare e dire la vostra anche là. Ieri qualcuno ci ha chiesto, ma li leggete questi messaggi oppure no? E quando li troviamo pertinenti e interessanti e utili per la trasmissione, certamente che lo facciamo. Iniziamo con la maturità, dunque. Maria Piera Ceci, ciao, buongiorno. Buongiorno Simone. Vai. Allora, fra un poco cominceranno ad uscire i primi studenti e saranno loro a raccontarci com'è andata. Comunque, tutto è filato liscio dal punto di vista delle procedure telematiche, ormai sono anni che va avanti così. Molta attualità nelle tracce proposte per il tema di italiano, in cui, consentiteci anche un po' di piccolo orgoglio, il quotidiano Il Sole 24 Ore compare per ben 3 volte. Allora, cominciamo dall'analisi del testo per il quale è stato scelto il poeta livornese Giorgio Caproni, come dicevi anche tu nei titoli, con la poesia Versicoli quasi ecologici. Qualche dubbio è circolato in realtà questa mattina in rete, perché si tratta di un autore che non viene studiato a scuola, quindi si ripropone la diatriba, sì, belle le tracce, però poi se queste cose non vengono affrontate a scuola per i ragazzi diventa complicato. Saggio breve di carattere storico-politico, disastri e ricostruzioni, quindi insomma il terremoto è sbarcato in qualche modo nel tema di maturità, con un brano di Alvar González Palacios pubblicato su Sole 24 Ore. Molto contento il sindaco di Amatrice, Pirozzi, ha detto che si è trattato di un grande atto di attenzione da parte del MIUR. Pirozzi che vorrebbe poi leggerli questi temi per capire come i giovani hanno percepito il tema terremoto. Saggio breve tecnico-scientifico, robotica e futuro fra istruzione, ricerca e mondo del lavoro, con spunti presi da Fabiana Bertazzi e Angelo Magnani, anche questo da un articolo del Sole 24 Ore. Il saggio breve artistico-letterario sulla natura fra minaccia e idillio nell'arte e nella letteratura. Poi saggio breve socio-economico, nuove tecnologie e lavoro. Uno dei testi è del giornalista economico Enrico Marro, anche questo del Sole 24 Ore, l'abbiamo sentito tante volte ai nostri microfoni stamattina in Cuore e Denari. Sentiamo cosa ha detto. L'articolo in questione parlava di un importante report dell'ONU che in sostanza diceva come potesse essere più pericoloso per i paesi emergenti l'arrivo dei robot. Questo perché sappiamo che molte produzioni industriali sono state spostate dai paesi occidentali, dai paesi sviluppati, ai paesi emergenti, proprio per via della manodopera a basso costo. Ora, questa manodopera a basso costo naturalmente è messa a repentaglio dall'arrivo dei robot, che sono più economici, non si stancano mai, sono facilmente programmabili e così via. Poi ancora il tema d'attualità sul progresso. Ai maturandi è stata proposta una citazione del genetista Edoardo Boncinelli. Il tema storico sul miracolo economico italiano, con brani di Piero Bevilacqua e di Paul Ginsborg. Dei bei temi, quelli proposti e in qualche modo legati fra di loro con un filo conduttore, secondo lo scrittore ed insegnante Marco Balzano. Mi pare che la vera novità delle tracce di quest'anno, secondo me, sia che sono riusciti a proporre dei temi che sparlano un po' tra loro, cioè ci sono delle tematiche ricorrenti, temi che attraversano, diciamo così, in maniera trasversale un po' tutte le tracce, il rapporto tra natura e tecnologia, tra paesaggio e progresso, tra idillio e natura, tra progresso e civiltà, come nel tema di ordine generale. Questo è interessante perché permette permette di scegliere una traccia ma di tener presente le altre e, diciamo così, di considerarle come ulteriori spunti. Grazie dunque a Maria Piera Ceci per questo aggiornamento. Una piccola aggiunta, che è una nota tra il personale, il professionale e l'aziendale. Notava Maria Piera Ceci che una punta d'orgoglio, diciamo, che c'erano almeno tre articoli del Sole, c'erano tre articoli del Sole 24 Ore tra le tracce di maturità di quest'anno sul tema dell'automazione. Vi ricordo che prima che il dibattito diventasse mainstream, per così dire, l'automazione e la robotica, questo dedicai, diciamo così, una trasmissione, si chiamava L'era dei robot, è andata in onda 2 anni fa d'estate sulla nostra pagina Facebook, sulla quale stiamo facendo la diretta, lo trovate tra i commenti, abbiamo messo il link, ci sono ancora tutte le puntate, ovviamente se volete riascoltarle sono là. Passiamo alla Gran Bretagna e passiamo a parlare del discorso della regina di oggi, di fatto l'inaugurazione della legislatura in un momento tra l'altro difficile per la stessa regnante britannica. Laura Bettini, buongiorno. Buongiorno, sì, proprio così, perché stamattina abbiamo avuto notizia noi e ovviamente la regina ne era ben consapevole, che il principe Filippo di Edimburgo, cioè suo marito, era stato ricoverato per precauzione per un'infezione derivante da una precedente malattia, ma insomma la regina è arrivata nella Camera dei Lord in perfetto orario, come conviene a una regina, ma sicuramente con questa preoccupazione anche nel cuore. Ha presentato come da programma, come da tradizione, il programma del nuovo esecutivo, cioè il discorso che è redatto dal governo, il programma di governo, ma che viene letto dalla regina. Del programma originale dei Tory, dopo l'esito del voto dell'8 giugno, è restato ben poco, se non la parte, ed è stata quella centrale, dedicata alla Brexit, alle sue implicazioni, ai cambiamenti e agli investimenti che saranno necessari. Per esempio sono state nominate le agenzie che sarà necessario adesso istituire nella Gran Bretagna, perché non saranno più quelle di Bruxelles il riferimento, quindi bisognerà pensare anche a questo aspetto. Sentiamo un primo passaggio della regina ed è proprio parte proprio da questa uscita dall'Unione Europea. My government's priority is to secure the best possible deal as the country leaves the European Union. Sentite, questo è proprio stato l'esordio, uscire dall'Unione Europea con le migliori condizioni possibili. La regina ripeterà continuamente my government, il mio governo. Ovviamente le parole andrebbero pronunciate dalla May in questo momento, però questo è il quadro, questa è quella che è la tradizione, così va fatto. Il programma del governo britannico prevede, ha detto tra l'altro la regina, il Great Repeal Act, che cancellerà l'intera legislazione europea in Gran Bretagna, e poi ci sono una serie di altri però passaggi che sono più politici. Ad esempio c'è un colpo, diciamo così, al cerchio laburista. Sono stati annunciati più investimenti in scuole e sanità, che sono proprio i due binari su cui si è mosso Corbyn nel corso della sua campagna elettorale, dicendo che May aveva troppo poco investito, troppo tagliato in questo. Sentiamo. My ministers will strengthen the economy, said that it supports the creation of jobs and generates the tax revenues needed to invest in the National Health Service, schools. Quindi più lavoro e più investimenti in scuole e sanità. C'è un altro passaggio poi che dopo, vista la situazione, gli ultimi attentati che ci sono stati in Gran Bretagna, promette anche più investimenti e più libertà per le forze di polizia e le forze di sicurezza in generale. E poi dicevo un colpo al cerchio laburista per gli investimenti in scuole e sanità, e l'altro colpo ovviamente alle anime del Regno Unito, Galles, Scozia, Irlanda del Nord, in particolare quest'ultima, perché l'appoggio della destra unionista nordirlandese è vitale per il governo, e ieri il Dup si era detto insoddisfatto delle trattative con i Tory. Simone, se vuoi sentire, siamo lunghi, siamo un po' lunghi, tagliamo. Io ti ringrazio, grazie a Laura Bettini, grazie, tanto ci hai riassunto perfettamente quello che ha detto la regina oggi, e vedremo come andrà a finire appunto con la formazione del nuovo governo di Theresa May. Di Brexit tra l'altro ha parlato anche il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni in vista del Consiglio Europeo. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, è così, è intervenuto al Senato il Presidente del Consiglio Gentiloni in vista del prossimo Consiglio Europeo. Il Premier ha parlato del futuro dell'Unione e anche delle conseguenze della Brexit. Più che una campana a morto per il progetto europeo, è stata una robustissima sveglia, forse, ha spiegato Gentiloni. Ricorderemo il voto inglese più che come inizio della fine, come un campanello di allarme che ha messo il progetto dell'Unione al centro della discussione pubblica del nostro continente. Ma il futuro dell'Unione, il ragionamento di Gentiloni, passa anche per la gestione del fenomeno dei migranti, e su questo Bruxelles deve fare di più, ha detto il Presidente del Consiglio. Sentiamo allora questo passaggio. L'Europa se vuole recuperare la sua vitalità, se vuole cambiare, se vuole scommettere sul proprio futuro, oltre ad avere politiche che accompagnano la crescita, gli investimenti e il lavoro, deve avere una politica migratoria comune. Questo noi pretendiamo a Bruxelles e lo faremo anche nel Consiglio europeo dei prossimi giorni. Per combattere il terrorismo, ha detto ancora Gentiloni, è necessario intensificare lo scambio di informazioni tra i paesi europei, quindi la ripresa economica, lo abbiamo ascoltato anche dalle stesse parole di Gentiloni, non va frenata da regole concepite in un periodo diverso, ha spiegato, non bastano i numeri, non bastano i decimali, per il Presidente del Consiglio servono di fatto lavoro, inclusione e crescita, è questo che determina il successo dell'Unione Europea a livello internazionale. È tutto, linea allo studio. Grazie dunque anche a Vincenzo Miglietta per questo aggiornamento. Un nuovo allarme terrorismo stamattina in Belgio. Sergio Nava, buongiorno, dopo il fallito attentato di ieri. Sergio. Sì, buongiorno. Partiamo proprio da quello. Infatti si chiamava Usama Z, aveva 36 anni, viveva nell'ormai noto quartiere di Molenbeek. Il terrorista che ieri sera ha provocato un'esplosione di bassa intensità all'interno della gare centrale a Bruxelles prima di venire ucciso da un militare di pattuglia. Perquisizioni sono in corso da stamattina proprio a Molenbeek per indagare possibili connessioni dell'uomo, finora conosciuto alla polizia solo per reati comuni legati al traffico di droga. Nel frattempo la procura federale belga, che ha avvocato a sé l'indagine, ha chiarito meglio i contorni del fallito attentato. L'uomo è entrato in stazione alle 20:39 di ieri scendendo le scale verso un gruppo di viaggiatori. 5 minuti dopo ha urlato qualcosa e ha provocato una prima esplosione della valigia che portava con sé. L'esplosione è stata fortunatamente di bassa intensità e ha permesso ai viaggiatori in transito di fuggire. A quel punto l'uomo ha abbandonato la valigia, che conteneva chiodi e bombole di gas, quindi potenzialmente poteva fare anche parecchie vittime, ed è risalito verso l'ingresso della stazione lanciandosi verso un militare al grido di Allah Akbar. Il militare ha quindi aperto il fuoco uccidendo l'uomo, che non era né armato né portava cinture esplosive. La mattina di oggi, lo dicevi tu, non è stata altrettanto tranquilla. La stazione di Namur è stata evacuata verso le 10:30 a causa di un trolley sospetto. Allarme poi rientrato, mentre una vasta operazione di polizia è attualmente in corso ad Anversa. Anche qui nei pressi della stazione si starebbe cercando un uomo armato. Chiudiamo dicendo, passando alla Spagna, dove tre marocchini sono stati arrestati a Madrid nell'ambito di un'operazione antiterrorismo. Uno di loro, Rashid El Omari, 32 anni, è considerato molto pericoloso in quanto integrato nell'organizzazione dell'ISIS. È tutto. Grazie dunque a Sergio Nava per questo aggiornamento, e noi ritorniamo all'Italia e veniamo a parlare dei dati dell'Istat diffusi questa mattina su come si muovono le persone per cercare lavoro. Il bonus da 80 euro, l'aumento della quattordicesima ai pensionati e il sostegno per l'inclusione attiva hanno aumentato l'equità nella distribuzione dei redditi disponibili nel 2016. A dirlo è l'Istat, secondo cui gli interventi pubblici sui redditi messi in campo fra il 2014 e lo scorso anno hanno migliorato la situazione di chi ha redditi nulli o bassissimi. Nel complesso il quadro è invece peggiorato non solo per chi ha redditi elevati, ma anche per il 49% di chi ha redditi medio-bassi. Secondo l'Istat, a beneficiare dei nuovi interventi sono state soprattutto le famiglie anziane, per le quali il rischio di povertà è stato abbattuto drasticamente. Al contrario, però, rileva l'Istituto, le coppie giovani e quelle adulte con minori risultano più esposte al rischio di povertà, che per loro è aumentato in misura contenuta. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Sì, come avete sentito, questa è la parte dei dati dell'Istat che riguarda appunto i redditi. Per quanto riguarda il lavoro, invece, è stato diffuso un rapporto dedicato a come si sono spostati gli italiani, non solamente gli italiani, un rapporto che indica che tra il 2008 e il 2015 800.000 persone hanno lasciato il paese. Di queste, 300.000 erano stranieri e 500.000 italiani. Questo il quadro che è stato consegnato dall'Istat, che dice anche che 360.000 persone si sono mosse dal sud al centro-nord in questi anni per cercare nuove opportunità di lavoro. Fatti che evidentemente ridisegnano in qualche modo la geografia degli spostamenti proprio alla ricerca di un'occupazione. Siamo alla finanza, in una giornata che è di attesa fondamentalmente per quanto riguarda le banche venete. Si attendono le offerte, forse secondo quello che ha pubblicato oggi il Sole 24 Ore ci sarà un consiglio di amministrazione di Banca Intesa. In una giornata come questa, che è di attesa per le banche, si diceva, arrivano notizie invece dalla grande distribuzione e in particolare da Esselunga. Esselunga va verso Piazza Affari, sarebbe questo infatti l'obiettivo finale per la società di grande distribuzione, frutto di un'intesa raggiunta nelle ultime ore tra gli eredi della famiglia Caprotti. La moglie Giuliana e la figlia Marina Caprotti hanno il 70% di Supermarkets Italiani, che controlla a sua volta il 100% di Esselunga, e detengono il 55% di Villata Partecipazioni, il comparto immobili, mentre i figli del primo matrimonio, Giuseppe e Violetta, hanno quote di minoranza. Secondo quanto riferiscono fonti finanziarie, il piano prevede che in un primo tempo Esselunga S.p.A. acquisisca il controllo dell'immobiliare Villata Partecipazioni. Poi si dovrebbe procedere alla quotazione di Supermarkets Italiani, la holding che a quel punto avrà riunito supermercati e immobili che erano stati scorporati negli anni scorsi dal fondatore Bernardo Caprotti. Non sarà quindi un percorso breve e l'esordio a Piazza Affari potrebbe avvenire tra oltre un anno. Ricordiamo che solo venerdì scorso Giuliana e Marina Caprotti, in una breve nota indirizzata a dirigenti, quadri e dipendenti del gruppo Esselunga, avevano detto e precisato che l'azienda non è in vendita, rispondendo così alle notizie sull'offerta da 7,3 miliardi di euro dei cinesi di Yida International Investment, un'offerta che resterà comunque valida fino al 7 luglio prossimo. Monica Lodi da Radio Corp, Radio 24, il Sole 24 Ore. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e poi inizieremo il nostro giro per l'Italia. Andremo a Torino. Se non lo sapete, dopo quello che è successo a Piazza San Carlo, la sindaca Appendino ha emanato un'ordinanza che proibisce in alcune zone la vendita di alcolici dalle 20 alle 6 di mattina. Che cosa succede? Succede che arrivano poliziotti e carabinieri per cercare di far rispettare questa ordinanza, succede anche che ci sono scontri con persone legate in qualche modo ai centri sociali, ieri ci sono stati appunto questi scontri, c'è anche una poliziotta contusa, ci sono 12 deor di esercenti a quanto pare completamente distrutti, e inizieremo da qua, andremo anche a Venezia che festeggia il suo scudetto di basket e lo festeggerà anche presumibilmente il sindaco Brugnaro, che è il patron del basket di Venezia, e ci occuperemo anche di siccità a tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, 349-238-6666 per sms e whatsapp, e la pagina Facebook dalla quale andiamo in diretta anche video, www.facebook.com/effettogiorno. Tra un attimo andremo a Torino per parlare di questa ordinanza della sindaca Appendino, che sta suscitando tante polemiche da una parte e dall'altra parte anche scontri di piazza sostanzialmente. Però prima il nostro giro per l'Italia ci porta a Venezia che festeggia uno scudetto assolutamente inaspettato. Carlo Genta, ciao. Ciao Simone, sì, a Venezia c'è tutt'altra aria, c'è aria di festa per qualcosa che la maggior parte dei veneziani, e molti veneziani, non hanno mai visto, cioè lo scudetto, perché erano 74 anni che la vecchissima re era. Non vinceva un tricolore, ne aveva vinti nella storia due consecutivi, l'ultimo dei quali nel 42-43, quando i playoff erano qualcosa del futuro e quando si giocava a girone unico, i palloni si chiamavano pallonesse, si giocava alla misericordia, insomma, altra epoca che nemmeno noi abbiamo, certo, abbiamo visto. E pensa che l'avversario era Trento, che cestisticamente sarebbe nata 42 anni dopo quello scudetto, perché è nata da poco, una società recente. Comunque Venezia ha chiuso la pratica ieri sera, si è portata a casa il titolo, è campione d'Italia. E ci sono un sacco di bellissime storie che poi racconteremo, che si intrecciano in questo scudetto, cui è anche qualche polemica, perché misteriosamente, sai che ieri sera nessun rappresentante della Federbasket, della Federazione Italiana Pallacanestro, era presente laddove si è assegnato lo scudetto. È curioso sto fatto. Curioso. Ne parleremo in tutti i convocati, in cui parleremo di molte altre cose ovviamente. Allora grazie a Carlo, che ritroviamo, Carlo Genta, che ritroviamo a partire dalle 14 con tutti i convocati, e adesso, come si diceva, ci spostiamo a Torino. Facciamo sentire un po', per quel che si può capire da una radio, quello che è successo ieri. Oh no! E Ale, ecco qua, vige un divieto, un'ordinanza, come si diceva, emanata dal sindaco anche dopo i fatti di Piazza San Carlo, che prevede la stop alla vendita di alcolici a partire dalle 20, alcolici da asporto naturalmente, se sei dentro un ristorante o dentro un bar te ne puoi bere quanto vuoi, limitatamente ovvio, finché non confligge con la tua salute, però a partire dalle 20 non te lo puoi portare via l'alcol. Arrivano poliziotti, carabinieri a far rispettare anche questa ordinanza e succede che ci sono scontri di piazza. Maria Luisa Coppa torna con noi, presidente dei commercianti di Torino, di Confcommercio Torino, e anche vicepresidente nazionale di Confcommercio. Buongiorno Coppa, bentornata. Buongiorno a voi, a lei e ai suoi ascoltatori. Allora, è un'ordinanza che mi sembra che crei parecchi problemi, diciamo, dal punto di vista del mantenimento dell'ordine pubblico, e questo lo abbiamo visto. Non piace agli utenti e immagino non piaccia nemmeno a voi questa ordinanza. A prescindere dal fatto che cose come quelle di ieri non devono succedere minimamente, è stata anche aggredita una commissaria di polizia, è stata presa a pugni ed è una cosa gravissima, inaccettabile e ingiustificabile. Posto questo, c'è questa ordinanza che forse è un po' troppo restrittiva, Coppa? Ma dunque, io parto dal presupposto che certamente Torino, dopo i fatti del 3 giugno, ha una sensibilità particolare rispetto ad alcune tematiche. Noi come Ascom Confcommercio di Torino, e già abbiamo detto ai vostri microfoni, che da tempo abbiamo sottolineato il tema dell'abusivismo, che effettivamente è stato il tema determinante negli avvenimenti che sono successi il 3 di giugno. Abusivismo, sì, quindi vuol dire persone che non sono imprenditori, che vendono prodotti abusivamente. Sì. Naturalmente, come capita spesso in questi casi, poi escono delle delibere, escono delle direttive che vanno a contrastare quelli che fanno in modo assolutamente regolare il loro lavoro. E quindi certamente c'è, sì, perché una lo ricordiamo l'altra sera, ecco. Qualche sera fa è finita di nuovo a botte la vicenda, ed è finita a botte ai Murazzi. Per quale motivo? Perché le forze dell'ordine hanno cercato di bloccare dei venditori abusivi. Ci sono delle persone che sono intervenute in difesa dei venditori abusivi, però la sostanza è che i venditori abusivi, ecco, là c'erano, nel senso che le vendevano loro le bibite da asporto. Ma infatti il problema è che probabilmente si è lasciato che questa situazione per troppo tempo non fosse considerata, quasi quasi a far diventare legittimo anche l'abusivismo, anche tutto quello che nelle nostre città è così ben visibile di fenomeni di abusivismo assolutamente concessi, per cui la gente poi forse non considera più che l'abusivo è un abusivo, però credo che i fatti successi ieri sera siano oltre a quello che noi stiamo dicendo. Certamente. Qui c'è qualcuno che si approfitta della situazione, sì, perché voglio qua ci nemmeno una un'ordinanza, sì, della sindaca può provocare delle questioni di questo genere. Coppa, mi permetto di interromperla, perché voglio essere molto chiaro con gli ascoltatori. Qualche ascoltatore ci dice, però dillo che l'agitazione è scaturita dai centri sociali. Sì, c'erano molti rappresentanti dai centri sociali là, naturalmente, a contrastare la polizia, chiaramente. Ma infatti, no? Voglio dire che la prima cosa che noi facciamo è dare la piena solidarietà alle forze dell'ordine, agli agenti aggrediti in particolare, certamente poi ai clienti delle nostre imprese e alle imprese. Però la polizia in quel momento stava facendo un ruolo che le imprese e i cittadini chiedono di fare, e cioè di poter essere seduti in un dehors senza essere continuamente infastidito, senza essere vedere delle scene che non piacciono, e quindi la polizia stava facendo soltanto il suo ruolo. Su questo non c'è dubbio. È chiaro che non sono né i clienti né i commercianti, e credo anche pochi abusivi, non tutti almeno, che hanno fomentato la cosa, ma certamente i fatti sono stati provocati certamente da estranei. A chiudere Coppa, quest'ordinanza, veramente le chiedo di essere molto breve, quest'ordinanza vi va bene così com'è oppure no, o è troppo restrittiva? È esagerata, però noi abbiamo già chiesto un incontro con il prefetto di Torino, che avremo lunedì, con la sindaca, che avremo quando ci concederà l'incontro, per tarare delle regole che possano essere gestite dagli imprenditori in modo ottimale e che naturalmente invece puniscano delle frange di mercato che sono frange illegittime, illegali. Sì. E quindi abbiamo la disponibilità di entrambi le istituzioni. Credo che un tavolo dove molto tranquillamente, sì, senza le sensibilità del giorno dopo, ma con una visione d'insieme, possano riportare a Torino quella serenità che la nostra città conosce e che noi faremo di tutto per avere. È una città, sì, assolutamente sicura, sì, e quindi vogliamo che lo sia per i turisti, che sono numerosi. Per tutti, per tutti sempre, e per chi gira la sera. Io la ringrazio. Grazie a Maria Luisa Coppa, che è presidente di Confcommercio Torino. Agli ascoltatori che dicono: ah, forza Appendino, ve la prendete con lei perché è del Movimento 5 Stelle. No, no, devo dirvi questo. Sono due giorni che proviamo a parlare con l'assessore alla sicurezza, due giorni, e due giorni che non trova un minuto, due minuti per venire in diretta con noi, per registrare un'intervista, perché anche questo abbiamo proposto. Ragazzi, poi troviamo gli interlocutori che ci parlano di questo tema, che sono diversi dall'amministrazione con la quale avremmo voluto parlare, la quale avremmo anche girato queste domande. Avremmo chiesto: non è un po' troppo restrittivo un'ordinanza che vieta dalle 20 alle 6 di prendersi una birra magari anche in un bicchiere di plastica e bersela su un muretto? È un po' troppo? Sì? No? Forse? Magari avrebbe potuto spiegarcelo l'assessore. Vedremo se nei prossimi giorni riusciremo a parlarci. Orietta Cazzulli, responsabile del servizio idrometeo regionale di ARPA Lombardia, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a tutti. Allora, l'abbiamo chiamata perché stiamo facendo un giro su quel che sta succedendo dal lato della siccità. Piove poco e lo sappiamo, ce ne accorgiamo tutti. Fa un caldo pazzesco, soprattutto sul centro-nord, e questa settimana sarà particolarmente dura. Siamo andati in Toscana, Toscana che ha i suoi problemi, in particolare la laguna di Orbetello. Abbiamo parlato del bacino del Po, adesso vogliamo concentrarci proprio sulla regione Lombardia. La situazione dal punto di vista dell'acqua com'è? Sì, dunque, anche in Lombardia siamo reduci da una stagione invernale primaverile povera di precipitazioni, quindi sostanzialmente abbiamo registrato da dicembre ad oggi circa 380 mm complessivi tra pioggia e neve su tutta la regione, quindi mancano all'appello circa il 40% di acqua che mediamente arriva in Lombardia. Questo ha determinato un impatto ovviamente significativo sulle riserve idriche. Attualmente, in termini di pioggia e neve, registriamo una quantitativo di neve ormai fusa completamente al di sotto dei 2700 metri, quindi la riserva di acqua che normalmente è stoccata nella neve, quindi è disponibile in questa stagione, purtroppo non ci aiuta. In Lombardia abbiamo i laghi, che sono l'altra riserva idrica. Grazie agli ultimi contributi di precipitazione che abbiamo avuto agli inizi di giugno e che hanno interessato principalmente il nord-ovest della Lombardia, possiamo dire che il lago Maggiore e il lago di Como stanno abbastanza bene. Abbiamo il lago Maggiore che è completamente pieno e il lago di Como è pieno al 73%. Stanno peggio i laghi lombardi ad est, abbiamo il Garda al 46% di riempimento, il Sebino all'86% e l'Idro al 38%. Se facciamo una media globale dello stato delle riserve idriche, quindi manto nevoso o più laghi, in Lombardia siamo a un meno 35% rispetto alla media recente, diciamo, dell'ultimo decennio. Complessivamente siamo ancora al di sopra dell'anno critico di riferimento, che in Lombardia è il 2007, siamo al di sopra di circa un 10%. E differenziato appunto tra ovest ed est della Lombardia, quindi l'ovest sta meglio e l'est sta un po' peggio. Io la ringrazio, grazie a Orietta Cazzulli, responsabile del servizio idrometeo regionale di ARPA Lombardia, per essere stata con noi. Prima di andare a sentire cosa succede sui mercati, una risposta ad un ascoltatore, Andrea, che scrive sulla pagina Facebook, sulla quale, come vi ricordo, stiamo andando anche in diretta video. Andrea, non mi mette in bocca a cosa che non ho detto. Non ho mai detto che quello che è successo ieri a Torino sia colpa dell'ordinanza della sindaca Appendino, ma figuriamoci se lo penso. È allucinante, e l'ho detto molto chiaramente, che sia stata che siano state queste scene di violenza, che siano stati devastati dei dehors, che sia stata picchiata una commissaria di polizia, ed è inaccettabile che una protesta contro che ci può stare una protesta assuma questi toni e questa violenza. Detto ciò, si può anche ragionare se questa ordinanza sia troppo restrittiva oppure no, nel dire che comportamenti come quelli di ieri sono inaccettabili. Andiamo a sentire cosa succede sui mercati, poi ci ritroviamo subito dopo nel nostro giro per l'Italia. Ancora il tema burocrazia e terremoto, perché la ricostruzione non parte. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezzi, i nostri titoli: maturità, l'avvento dei robot, il boom economico, l'ambiente e la ricostruzione dopo i disastri. Queste alcune delle tracce per l'analisi del testo del poeta Giorgio Caproni. Secondo l'Istat, 800.000 lavoratori hanno lasciato l'Italia dall'inizio della crisi, 500.000 gli italiani. Dal giorno del discorso della regina in Parlamento per l'inizio della legislatura, ha ricoverato il principe consorte Filippo per un'infezione. In Belgio, evacuata la stazione di Namur per un allarme bomba dopo il fallito attentato di ieri. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo. Qualche ascoltatore chiede: ma perché vi occupate solamente della siccità al nord e non del sud, Sicilia, Calabria o anche appunto delle isole come nel caso della Sardegna? Lo faremo sicuramente, ce ne andremo ad occupare. Tenga anche presente che c'è siccità là, però è anche vero che la Sardegna è una regione con una dispersione idrica, ultimo rapporto di cittadinanza attiva, del 52% contro il 22% della Lombardia. Quindi, come dire, sì, c'è la siccità, ma c'è anche un problema di come vengono gestiti gli acquedotti, di come viene gestita l'acqua, perché se metà dell'acqua va dispersa lungo il percorso, qualche problema ulteriore c'è oltre alla siccità in sé stessa, che sicuramente è importante. Raffaele Solustri è il consigliere del Consiglio Nazionale degli Ingegneri con delega al terremoto ed è marchigiano, tra l'altro. Solustri, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Ieri abbiamo ospitato il presidente degli architetti di Perugia. Solo una cifra voglio dare agli ascoltatori per ricordarla a loro: 28 ordinanze e 3 leggi speciali. Ordinanze che spesso si commissariali, che spesso si sovrappongono, vanno a sostituire magari un singolo paragrafo o una parte di un singolo paragrafo, creando una sorta di confusione normativa che può portare all'immobilismo, un immobilismo che deriva, mi sembra di capire, finora, Solustri, nessuno pretende, no, che in 10 mesi, 7 mesi o quant'è ci sia la ricostruzione completa, ma almeno che tutti sappiano che cosa devono fare e come devono farlo, e mi sembra che finora non ci siamo, no? No, per niente, anzi, correggo il collega architetto, sono 29 ad oggi, e tenga conto che in Emilia Romagna e Rani ne ha fatte 459, quindi lei può ben capire, e gli ascoltatori pure, qual è la difficoltà dei progettisti per redigere i progetti in maniera corretta. Se si continua a fare ordinanze per spiegare come devono essere fatti i progetti, io credo che i progetti non li presenteremo mai. Quindi la burocrazia effettivamente paralizza la ricostruzione. Sì. Se ad oggi ancora abbiamo... Sì, mi permetto di una lieve correzione, no? Perché noi genericamente, quando parliamo di queste cose, parliamo di burocrazia. In realtà, in questo caso, una quella che potremmo definire una superfetazione normativa più che burocrazia. Anche esatto, qua... superfetazione normativa forse è il termine giusto, ma tenga conto che ci sono delle incongruenze e delle criticità nelle ordinanze, come nelle norme, perché parlo, faccio un esempio, quello della sì, sì, evidentemente abbiamo qualche problema audio, provi. Ecco, adesso sì, la sento, adesso la sento. Ecco, non so, faccio come un esempio, per esempio quello della microzonazione sismica, no? Cioè, prima di presentare i progetti nelle aree del cratere, bisogna eseguire la microzonazione sismica. Che cos'è per gli ascoltatori la microzonazione sismica? Lo studio del territorio cioè come risponde il territorio a un sisma. Ma queste cose qui si fanno in tempo di pace, non può essere fatte in emergenza. Cioè i comuni, per dare gli incarichi, ci mettono 2 mesi perché non ci sono deroghe. Per eseguire le indagini ci vogliono altri 5 mesi, poi devono essere approvate queste microzonazioni dall'ente pubblico. Quindi arriviamo già al 2018, ma i progetti per la ricostruzione scadono, secondo le ordinanze, il 31-12-2017. Come vede, le criticità ci sono. Se io prima della microzonazione non li posso presentare, poi mi scadono il 31-12, cioè qui bisogna capire effettivamente che i 4 terremoti che ci sono stati nelle 4 sì. regioni hanno determinato una straordinarietà enorme. Bisogna capire la complessità, bisogna fare delle deroghe. Sì. Per presentare un progetto non mi puoi chiedere anche la regolarità urbanistica, per esempio, del fabbricato. Noi sappiamo in Italia, no? Una finestra, un tramezzo, un garage in più, quindi dei piccoli abusi ci sono, ma non può essere adesso il momento per regolare, no? Abusi sì. fatti in precedenza. Non mi puoi chiedere tu, ente pubblico, la regolarità urbanistica adesso, nel periodo della ricostruzione, me la chiederai in tempo di pace, dico sempre io. Certo, allora Soluzio, io la devo interrompere perché dobbiamo andare a chiudere, a sentire cosa succede sulle strade, però giusto per riassumere agli ascoltatori brevissimamente un esempio, l'esempio che Soluzio ci ha presentato è chiarissimo: devi fare la microzonazione sismica e il tempo nel quale finisce questa microzonazione sismica è il 2018, ma i progetti li devi presentare entro il 2017, 31 luglio, come avete sentito. Avete capito come sta funzionando in questo momento e perché è tutto fermo? Traffico, Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.